Radio Cerrano presenta The Musical Box, programma di musica rock curato da Emidio, Piero e Carlo, che rovista tra la musica del passato e del presente. Buonasera a tutti, nonostante la giornata sia di quelle, come dire, che bisogna dedicare al riposo, perché siamo oggi la festa dei lavoratori, primo maggio, noi siamo qui, presenti a Radio Cerrano Web per fare il nostro programmino che ci piace tanto. Allora, The Musical Box anche questa sera tenterà, siamo una mezz'oretta di ritardo, ma per problemi tecnici, non per... No, nemmeno, insomma, perché sono stati dei piccoli ritardi, però siamo qui in diretta e quindi vogliamo deliziarvi un pochettino con le nostre scelte musicali. Siamo ancora io e Emidio. Buonasera. Buonasera. E quindi... Salutiamo Piero, naturalmente. Sì, salutiamo Piero, ma l'ho visto in giro, quindi non so se... Tra non molto verrà ricomposto il trio. Sì, credo che la prossima settimana si dovrebbe ricomporre il trio. Dicevo, The Musical Box ormai la struttura la sapete, no? Siamo qui a, come dice lo stacchetto, a rovistare un po' tra le varie correnti musicali che ci hanno deliziato negli anni, ma anche quelle che probabilmente nel prossimo futuro avranno anche un buon successo. Una cosa su cui non sono d'accordo: sullo stacchetto parla di rock, ma noi tentiamo un po' di sondare Il rock, come in dicono generale gli amici di Blow Up, il rock è in tutte le sue contaminazioni. Esatto. Il rock è tutto. Vi interrompo solo un secondo per dire che siamo in diretta anche su YouTube. Questo è folle. Questo è folle. Wow. Ma che m'ha detto prima? Facciamo una diretta YouTube? Non lo dire, però. Non lo dire perché non sapevo se partiva. Ah, è folle. Allora datemi questi primi minuti perché allora poi non sappiamo. Allora siamo anche su YouTube, no? Dicevo, ecco, mi ha interrotto, che cosa volevo dire io? Niente, mi sono dimenticato. Noi, sì, è vero, rock e i suoi fratelli, quindi un po' tutto. Tant'è vero che io stasera le mie proposte musicali partono da un personaggio importantissimo che ha in qualche modo sondato diversi stili musicali, quindi soprattutto pop, rhythm and blues, ma anche soul. E stasera proporrò due interpreti, quindi due persone che hanno, un uomo e una donna, che hanno secondo me lasciato una traccia indelebile nel mondo musicale internazionale, perché in qualche modo il loro stile, insomma, è inconfondibile, segno che in qualche modo li ricorderemo per diversi anni, perché sono scomparsi entrambi. Allora io agevolo il primo brano, riconoscerete subito di chi stiamo parlando. I were a sculptor then again, no. Oh man, sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. Just for you. You can tell everybody that this is your song. All words may be quite simple, but now that it's done, yeah, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words off the moss, but a few verses, and nobody, well, it got me quite hoarse. Oh, but the sun's been real kind while I wrote down a song. You see, it's for people like you, yeah. Well, to keep it turned on. Forgetting, but these things I do. Well, you see, girl, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, honey, what I really mean, God is at radios, I'm the sweetest ass I believe I'll ever see. Era il 1969 quando Elton John compose, sì, la leggenda narra in 10 minuti questo brano, splendido brano, Your Song, spero che non ti dispiaccia, spero non ti dispiaccia che io abbia scritto quanto la vita sia meravigliosa da quando sei nel mondo. Questa è un po' la frase simbolo di questo bellissimo brano, che naturalmente Al Jarreau... Non hai ancora citato Al Jarreau. No, dicevo, ci stavo arrivando. Che Al Jarreau ha reinterpretato naturalmente a modo suo. Tant'è che io vi invito magari a mettere a confronto i due brani. Perché? Perché l'arrangiamento originale di questo brano, quindi quello di Elton John, molti critici, un po' come tutto l'album da cui proviene questo album, perché questo brano, che è contenuto nel secondo album di Elton John del 70 appunto, è un po' barocco, un po' un'orchestrazione abbastanza, come dire, non dico pesante, però che i violini, le cose, no? Quello che piacciono a te. Mentre Al Jarreau, come avete potuto sentire, l'ha un po' scarnificato e l'ha anche reso un po' più gezzato, se volete, no? L'ha interpretato in modo suo. Il, diciamo, e poi naturalmente la sua voce, la fa da padrona in questa versione che io sinceramente amo tanto. L'amo tanto questa versione che Emilio non me l'aveva messa in scaletta. E poi l'ho minacciato, sì, naturalmente. Sì. Mi ha bacchettato. Allora, secondo brano. So I can pass by each day, not a single word do we say to Panama and out of time. Still I know all eyes are for me. Half a tingle sound to my feet when your smile gets much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right when you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, oh, oh, oh. I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a time. Still I know my lines are for me. Half a tingles down to my feet. When you're smiling, much too discreet, it's setting me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, tell mama, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take her? Go where do we say? You're so pantomime and out of time. Still I know my lines are for me. Half a tingle down to my feet. When your smile went to the street, it's sending me on my way. Well baby, just don't say I'm on it. Please do not stay. You could offer your hand. Hugging and a chugging, it could be all so bad. Take five. Take five. Don't you stop and take a little time on with me. Just take five. Five. Oh, no, no, no, no, no, but I. Now, won't you take a little time, girl? Won't you take five if you won't? Beh, qui Al Jarreau dà un po' il un saggio della sua grande tecnica vocale, che è, ecco, una cosa che forse non tutti sanno è che lui si laureò in psicologia e poi il padre, vabbè, era un pastore della chiesa avventista nel Settimo Giorno ed era un ottimo cantante, ricordano i critici, e anche la madre suonava il pianoforte in chiesa. E lui iniziò aveva un destino segnato. Sì, lui iniziò a cantare nel coro della chiesa, succede a molti. E poi lui si laureò nel 62 in psicologia e soprattutto la cosa interessante è che prese un master in riabilitazione vocale e dopo il servizio militare si trasferì a San Francisco nel 64 come consulente per l'integrazione dei disabili presso la California Division of Rehabilitation. E insomma poi cominciò a cantare anche nei club, poi lì fu notato, si dice nel 75 fu notato al Bla Bla Café da alcuni produttori importanti, tra cui Ian Samuel della Warner Bros. E poi da lì cominciò la sua carriera. Lui ha inciso tantissima roba, ho contato quasi più di 30 album, una cosa del genere. Ciò che volevo sottolineare, questo brano Take Five, qui insomma siamo entrati proprio nel mondo del jazz, perché comunque stiamo parlando di un brano un po' caposaldo della musica jazz, anche un po' strano, perché Take Five, come sanno i ben informati, è un brano che prende il nome dal fatto che è scritto in 5/4, quindi è anche abbastanza veloce. Quindi ecco, molti critici dicono che è stato un successo inaspettato quello di Take Five, perché comunque non era usuale nel mondo del jazz, e lui naturalmente si è esibito in questa performance perché secondo me è vocalmente anche più difficile rendere. Sì, era anche uno dei brani più richiesti nelle sue esibizioni dal vivo, chiaramente. Sì, comunque diciamo che è un brano molto anche difficile da eseguire, e lui però insomma era uno di quelli che ha saputo, con la voce, sì, con la voce faceva quello che voleva. Sì, sicuramente campava di prepotenza, come diciamo noi. Vai con l'ultimo brano. Here we go, get going, take it. to snow that you got to get. Three got to reason, but you get easy, but you get easy, but you got a reason. Diceva microfoni spenti, diceva Emilio, un incontro fra titani, fra colossi, giganti. No? Fra giganti, è vero. E, insomma, avete riconosciuto sicuramente sotto la voce di Al Jarreau anche la Gibson di George Benson. Con questo brano, Brazen, che questo è un rifacimento, ma è comunque il brano che, come si diceva una volta, la title track di un album che ha avuto un grossissimo successo nel 76 di George Benson, e poi questa è la rivisitazione fatta da questi due mostri sacri del jazz, soul, insomma, chiamateli come vi pare, comunque sempre buona musica. E quindi niente, ecco, la mia prima proposta musicale, come vi dicevo prima, è stata quella di un grossissimo interprete che poi, vedete, ha intrecciato anche con questi brani che vi abbiamo proposto, ha intrecciato anche queste esperienze con altri grossi musicisti come George Benson, Elton John, come abbiamo detto, perché lui è un interprete e naturalmente poi i brani prendono un'altra strada, no? Prendono un'altra vita, sembra quasi, e questo vi dà un po' il senso, vi dà un po' anche la misura della grandezza di questo artista che io amo tanto. Vabbè. Allora, è che purtroppo è scomparso. Quanto tempo fa, Carlo? È scomparso, se non sbaglio, allora, nel 2010, aspetta un attimo che... Nel 2017, no, 10, perché lui ha avuto problemi nel 2010, perché venne ricoverato in ospedale in Francia per una polmonite e per aritmie cardiache. Da lì cominciò un po' a zoppicare, certo, nel 2012 gli fu diagnosticata una polmonite che causò l'annullamento di diversi concerti, e poi nel 2017, dopo essere stato ricoverato per esaurimento a Los Angeles, ci ha lasciati. Sì, lui cancella tutte le date del 2017 e la Montreux Jazz Academy e annuncia che Al Jarreau non sarebbe tornato come quelli dei 10 giovani artisti, e nel mese annuncia il ritiro. Poi è stato sposato, vabbè, okay. Muore 4 giorni dopo, quindi stiamo parlando del 2017, a 76 anni. Bene, voltiamo pagina. Sì. Dopo questi ricordi bellissimi che ci ripropone Carlo, questi grossi autori, E io inizio quasi sempre con un disco abbastanza recente, in questo caso addirittura un'autentica novità, un disco che è uscito circa un mese fa. Circa un mese fa. E stiamo parlando di un duo, sono due sorelle, Sierra e Bianca Cassidy. Quindi i più attenti avranno già capito che stiamo parlando di Coco Rose. Questo ultimo loro lavoro, appunto recentissimo, si chiama Little Death Wishes, piccoli desideri di morte. Non è molto bello il titolo, ma il disco comunque invece è molto interessante. Che cosa possiamo dire velocemente di questo gruppo? E diciamo che circa una ventina d'anni fa, 21 per l'esattezza, le sorelle Sierra e Bianca realizzarono un disco notevole, quello che secondo me è ancora il disco più bello che hanno fatto, Le Maison de Mon Rêve, che sorprese tutti per la sua freschezza e originalità. È un disco che si muoveva tra il folk, l'elettronica, la sperimentazione, ma lo faceva con la naturalezza di chi non appartiene a nessuna scena se non alla propria. Una specie di bizzarra caricatura della musica, con l'utilizzo di strumenti giocattolo e rumori usati spesso per delle basi imprevedibili. E quello che stupisce è il modo in cui riescono a tirar fuori da tutto ciò un folk primitivo, evocativo, intimo, aggiornato con stravaganze e diavolerie più o meno contemporanee. Un frullato di trip hop, hip hop, glitch, avant rock, e chi più ne ha più ne metta. E dopo 7 album in studio, tra alti e bassi, più alcune colonne sonore per opere teatrali e collaborazioni di prestigio come quella con i Kronos Quartet al Jazz Festival di San Francisco, e quello che è rimasto è il gusto delle sorelle di dialogare artisticamente, giocando con stili in un'opera di costante bricolage sonoro. Ma tu poi dirai qualcosa della loro vita privata? Un attimo, non mi spezzare un po' il filo. No, io vorrei parlare di questo disco, di questo disco nuovo, di questo Little Death Wishes, recentissimo, ripeto, dove tra l'altro hanno partecipato degli ospiti abbastanza importanti come Gael Racoton-Rabe al piano, Greg Sagner dei The Roof alle percussioni, e poi in alcuni momenti c'è un rapper, un certo Change the Rapper, ma i protagonisti sono ancora loro, le sorelle, che allora Sierra è quella che si è dedicata più ai testi e Bianca quella che ha un po' creato un po' più i suoni. Sono 12 tracce che affrontano tematiche complesse come le difficoltà generazionali delle donne, la precarietà dell'esistenza, le disillusioni amorose e quel costante e tormentato legame con l'infanzia che è da sempre un po' la cifra caratteristica del duo. Comunque, siccome, come diceva Frank Zappa, parlare di musica è come ballare di architettura, io direi di far ascoltare appunto un primo brano di questo disco. Il brano si chiama Wait For Me, che apre l'album, e ascoltiamolo, poi lo commentiamo un po'. When she dropped the money. Io, sai perché ti dicevo, no, di integrare con qualche notizia di vita privata? No, ma perché c'hanno una vita privata veramente, come dire... favolistica. Sì, è un po' come la loro, un po' come i loro brani, no? Favolistica veramente, perché loro sono due sorelle e all'età di 14 anni, non so, insomma i genitori si lasciarono, divorziarono e... E se non sbaglio Sierra viene buttata fuori di casa dalla madre e mandata in collegio dal padre, e quindi questa, insomma, è una vita un po' tribolata. Dopodiché lei decide di fare un po' di girare il mondo, mentre la sorella Bianca decide di andare a Parigi. Insomma, questi si rincontrano a Parigi, le due sorelle, dopo 10 anni che non si erano mai viste, e lì danno vita a quel capolavoro che dicevamo prima. Due capolavori, un album hip hop, se non sbaglio, e l'altro brano, e l'altro album quello che è Maison de Mon Rêve. Esatto. E completamente registrati nel bagno di Sierra, sì, perché dicevano che lì c'era un'ottima acustica. Sì, esatto. Poi con strumenti lì rabberciati, sì, alla, sì, sì, sì, alla meno peggio. Io invece volevo citare un po' un piccolo estratto di una intervista che hanno rilasciato, dove loro descrivono un po' la loro musica. E Bianca dice che siamo un bricolage di cultura pop, e abbiamo sempre visto la nostra musica come un collage, proprio come facciamo con l'arte visiva. Anche il nostro stile è un collage, c'è spesso una collisione di generi, a volte persino nei ritmi, con diverse firme musicali che si sovrappongono. Lavoriamo sempre più con quello che abbiamo a disposizione, tagliando e rielaborando elementi esistenti, campioni di epoche diverse, creando una sorta di viaggio nel tempo sonoro. È un po' un processo alla Frankenstein. Io creo il caos e Sierra gli dà una struttura, lo modella e gli dà un senso. Così da questo disordine emerge qualcosa di nuovo e originale. Invece Sierra dice: è proprio questo l'aspetto che ci affascina, il fatto che da un caos apparentemente senza forma possiamo ricavare una nuova narrazione. La musica è come un processo di assemblaggio, dove ogni frammento ha una sua storia, e quando questi frammenti li metti insieme, crei qualcosa che non avresti mai immaginato all'inizio. Secondo brano. Thank you. could I fix the broken parts? If fix I could, could I would day name dead star, cut stage scar? Could I fix the broken parts? If fix I could. Take a leap of faith. There may not be a hand for you. Take a leap of faith. There may not be a plan for you. And this may be the dark. Questa era Cut Stick Scar, cicatrici da taglio e suture. A microfoni spenti mi dicevano che questo brano ricorda molto Björk. Sì, in effetti c'è una certa assonanza, anche il modo di usare l'elettronica in maniera rarefatta e anche un po' giocosa, insomma, questa accomuna le sorelle a Björk. E per completare la presentazione di questo nuovo disco, proponiamo il terzo estratto, che si chiama Yesterday, che diciamo che esplora l'isolamento e la marginazione con un beat sporco e voci che si alternano tra rap, sussurrato e canto stridente. Il pezzo suona come una finastrocca distorta, perfettamente in linea con l'estetica delle Coco Rose. Quindi direi di concludere appunto il disco con questo brano, anche se Carlo mi interrompe, che c'è? No, ma tu sei troppo... No, didascalico. No, sei troppo... come si dice? Ma non l'abbiamo recensito sul nostro libro? Esatto, il loro precedente disco di 3 o 4 anni fa. Era inserito nel nostro libro dove commentavamo i brani e i dischi ascoltati durante la pandemia. Non cercatelo perché è esaurito. Esauritissimo. Allora via con questo Yesterday. I'm just sitting here waiting for my ride. Nobody passed for a very long time. Just yesterday, I'm just sitting here while you're doing time. I wonder right now what's going through your mind. I'm smoking cigarettes like the end of time. I remember yesterday like it was just yesterday. She got late, he got time. She got kids, lost her mind. She got drink, she can't think. Ebbene, questi erano i Coco Rose con il loro ultimo album, che ho letto un po' di recensioni, l'hanno trattati tutti abbastanza bene, forse quelli, gli amici di Sentire e Ascoltare, hanno ritenuto che non sia un disco tra i loro migliori, vabbè, ma comunque il mondo è bello perché sì, è vario. Ci può stare. Secondo noi è un ottimo disco, lo consigliamo chiaramente. Allora, io per contratto devo ripetere che state ascoltando Radio Cerrano Web, che siamo in diretta anche su YouTube e che naturalmente oggi è il 1° maggio e forse parecchi di voi magari stanno ascoltando, stanno guardando il concertone a Roma del 1° maggio. Ci sono diversi artisti, non ci sono più i De Novo e gli Avion Travel, c'è San Giovanni, una cinquantina di... c'è molto molti giovani, molto tunes. Un attimo, date uno sguardo, hai visto un po' la... sì, insomma, vabbè, i partecipanti, non facciamo polemiche e cambiamo registro. Io prima ho fatto un piccolo errore presentando i miei due artisti, che uno era il Gerroe, ce lo siamo goduto nella prima parte del programma. Adesso insomma ci ascoltiamo, ci godremo, godremo Amy Winehouse, che naturalmente ho detto è un'interprete, ma è una cantautrice in effetti, quindi lei ha anche scritto brani e naturalmente ha interpretato brani. E stiamo parlando appunto di una bella, brava e maledetta, purtroppo, artista che ha finito troppo presto di... Ma anche lei aveva 27 anni quando è morta. Sì, sì, è entrato nel club dei 27. No, 27 no, credo che ne avesse... Allora, 83 è nata, quindi... sì, credo è morta nel 2011. Quindi... Il club di Hendrix. Sì. Credo 28. Jim Morrison... Sì, credo 28, non 27. Janis Joplin, insomma, sì. Vabbè. La maledizione dei 27 anni. E purtroppo, insomma, stiamo parlando di un artista che, ripeto, secondo me poteva dare tantissimo alla musica internazionale, e invece poi la vita fa brutti scherzi, è vero. Purtroppo. Lei esordisce nel mondo della musica nel 2003 pubblicando per l'Island l'album che fece in studio, che si chiamava Frank, un ottimo successo di pubblico e di critica. Pensate che il Times scrive a proposito di Frank: questo è un disco che le persone continueranno ad ascoltare anche in un lontano futuro. Mentre la rivista Dazed lo recensisce come uno dei più impressionanti debutti musicali britannici degli ultimi anni, e The Guardian parla di un talento vocale colossale. Beh, secondo me non sono fuori luogo queste affermazioni, queste critiche, perché anche se in effetti... poi fece molto meglio col disco successivo, sì, che è un po' il disco Back to Black che ci piace mitico, di più. Mitico, sì, album. È un mitico album che io l'altro ieri ho regalato a mio fratello il vinile per, come regalo di compleanno, dicendo che era uno degli album più belli secondo me della discografia negli ultimi 20-30 anni. Vai. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. Cause there's nothing you can teach me. Thank you. Beh, questo era il brano che un po' faceva da traino a tutto l'album di cui stavamo parlando prima, cioè Back to Black, che insomma è stato accolto dai critici in maniera veramente importante. Il brano era appunto Rehab, questo brano, dicevo, insieme ad altri due o tre, insomma, faceva veramente da traino. E stiamo parlando di un album che ha ricevuto 5 Grammy Awards. The Guardian lo definisce il più grande album del XXI secolo e uno dei più importanti di sempre. No, prima o dopo la sua morte, perché c'è questo, no, questo vizio della critica prima della morte di esaltare ciò che colpisce veramente è il fatto che lei credo abbia inciso 3 album, 2 o 3, insomma, quanto avrebbe potuto dare ancora in una situazione di normalità, chiamiamola, certo, di normalità. E purtroppo invece droga, alcol e disturbi alimentari hanno causato veramente la fine di questa splendida artista, e fino a quando la morte l'ha colta nel 2011 nella sua abitazione di Camden, e tant'è vero che il suo terzo album viene pubblicato postumo. Noi adesso invece ci ascoltiamo You Know I Am No Good, sembra quasi un messaggio subliminale. Lo sai che non sono buona. Cause you're my fellow, my guy. You Know I'm No Good è un altro singolo estratto dall'album Back Fortunato to Black. Fortunato album. Sì, fortunatissimo album. Ne furono estratti 3 o 4, credo, importantissimi. E, no, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che nel brano No Rehab, lei insomma... nel testo grida quasi che non vuole disintossicarsi, che non vuole salvarsi dall'alcol e da questa vita un po' sconsiderata. Diciamo che stava anche nella sua opera un po' il suo destino in qualche modo. E stiamo parlando naturalmente di Amy Winehouse, un'artista, se voi andate su internet, poi insomma, soli 3 album, di cui uno postumo, il terzo, troverete di tutto. Questo vi dà anche un po' il segno della popolarità, della bravura di questa artista e della e anche un po' della, come posso dire, del senso di sconfitta che spesso insomma subentra nel momento in cui un artista giovane, no, va via e sapevi che avrebbe potuto dare tanto, abbiamo detto il club dei 27 in qualche modo, però erano altri tempi, erano tempi in cui per esempio Janis Joplin e altri, l'LSD e altre droghe erano un po' in qualche modo di moda, qui invece stiamo parlando di alcol. Probabilmente le radici del malessere di Amy Winehouse provengono anche dalla sua situazione familiare, anche dai rapporti che ha avuto, che non sono stati così edificanti secondo me, però poi ecco, come diciamo dalle nostre parti, la vita purtroppo... Ah, c'è da sottolineare un altro aspetto, che anche lei ha subito un po' quella sorta di ipocrisia di certa critica che l'ha osannata solo dopo la sua morte. Beh, oddio, io non lo so, sono completamente d'accordo a questo, su questo. Sì, in effetti dopo la sua morte, vabbè, gli eroi sono tutti giovani e belli, certo, come certo. Si suol dire, però è anche vero che la bravura e le potenzialità di questa ragazza sono venute subito fuori, come ho se letto ne accorti, se ne erano accorti anche prima. Molti. Sì, se ne erano accorti in molti. Il problema secondo me è che invece forse... io credo che sia il contrario, nel senso che il troppo successo, il grande colpo, no, che questa ragazza ha avuto in un mondo che poi sappiamo che può anche distruggerti in qualche modo, lei credo non ha retto, non ha saputo reggere questa situazione. Vabbè, diamo la parola alla musica e ascoltiamoci questo bellissimo brano che è un live alla BBC, registrato alla BBC Valerie da Amy Winehouse. And I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle hair and the way you like the dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. come over Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like to dance. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Benissimo, e questa era la mia ultima proposta, poi ripasso la palla a Emidio, e che ho visto che però, insomma, ti mantieni anche tu sul classico. In che senso? Che ho visto che c'è i REM sotto. Hai sbirciato nella mia scaletta. E dicevo, abbiamo sondato un po' questo maledetto e benedetto mondo di Amy Winehouse, che, come insomma un po' tutti sapete, ha combattuto battaglie contro l'abuso di sostanze stupefacenti e le ha perse tutte, purtroppo. Tanti media hanno un po' sfruculiato, come diciamo, sulla sua vita. Poi insomma c'è chi si butta a pesce su certe situazioni. Noi invece la vogliamo ricordare per la sua bellissima voce e per la sua bravura, bellissima musica. Vabbè, hai spoilerato. Hai anticipato l'ultimo artista, l'ultimo gruppo che proponiamo in questa puntata di Musical Box dai microfoni di Radio Cerrano Web, che è bene ricordarlo ogni tanto. Allora, The REM, che cosa ho portato questa volta? Ho portato l'ultimo disco che è uscito a loro nome, che tra l'altro è un disco dal vivo, un disco acustico, l'Unplugged del 1991 e 2001. Non è che vi vogliamo tediare più di tanto sulla vita e sulla biografia di questo gruppo, che poi tra l'altro è famosissimo. È il gruppo che si è sciolto ufficialmente nel 2011, e questo disco acustico l'hanno pubblicato nel 2014, anche un po' a sorpresa. E questo live, diciamo, è un po' una raccolta, non dico dei loro brani più rappresentativi, ma ci sono veramente tantissimi brani molto importanti in questo disco. Ed è un po' l'occasione per cercare un po' di vedere qualche aspetto particolare, un po' qualche aneddoto, qualcosa sui REM che magari non si sa, non si cita molto. E per questo vi leggerò, questa sera ce l'ho un po' con le interviste, e per questo vi leggerò alcuni estratti dell'intervista che Mike Mills, bassista e principale compositore dei REM, ha rilasciato. Però prima facciamo parlare anche un po' la musica. Il primo estratto da questo Unplugged che ho scelto si chiama So Central Rain, I Am Sorry. From a great, great long time ago. We hope you like it. Did you never come? I've waited for your call. Rivers of suggestion are driving me away. The trees are bent, The cities wash away. The city on the river is a girl without a dream. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Party call, the line shut down, the wise man built his words upon the rocks, but I'm not bound to follow suit. The trees will bend, the cities wash away, the city in the mountains is a boy without a dream. I'm sorry, are driving me away. The ocean sang, the conversation dimmed. Go build yourself another dream. This choice isn't mine. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Central Rain, I am sorry. I'm sorry. Pure I'm io, sorry. I'm sorry. E questo brano mi sento, non mi sento bene in cuffia. C'è un po' di febbre, 37 meno. E stavo ricordando che questo brano fu pubblicato nel maggio del 1984 ed era il primo singolo estratto dal loro secondo disco che si chiamava Reckoning. Dicevo che per vedere qualche aspetto particolare dei REM andiamo a spulciare un po' dall'intervista rilasciata da Mike Mills, e alla domanda la prima leggenda, come vi siete incontrati esattamente 35 anni fa, è vero che fu grazie a una ragazza? Mills risponde: non è una leggenda, è vero. Il suo nome era Kathleen O'Brien ed era l'ex fidanzata di Peter Buck, come si dice, che era il chitarrista. Lei poi ha iniziato a uscire con Bill Berry, il futuro batterista. Io e Bill eravamo a caccia di un cantante e di un chitarrista, e lei sapeva che Peter e Michael Stipe, il cantante terzo ed ultimo, stavano cercando una sezione ritmica. E così ci hanno messo in contatto. Il nostro primo concerto è stato a una sua festa. Alla domanda, altra presunta leggenda: in quel periodo il nome della band era Twisted Kites, gli aquiloni attorcigliati, vero? No, lo hanno scritto in molte nostre biografie, ma non è così. Quello era il nome che Peter avrebbe, quello era il nome che Peter avrebbe voluto. In realtà non avevamo ancora un nome. Così una sera Michael prese il dizionario e dopo i primi tentativi andata a vuoto ne venne fuori con Remo. R-E-M. Il suono ci piaceva, ma nessuno di noi sapeva che cosa volesse dire. Guardammo sul dizionario Rapid Eyes Movement, ovvero quando dormi e al tempo stesso stai sognando. Ok, è questo, eravamo tutti d'accordo. Secondo brano. The world is collapsing around our ears. I turned up the radio, but I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that she had been crying. It's that same song on the radio that makes me sad. I tried to turn it off, to say goodbye, to leave in quiet that radio song. Hey, hey, hey. Everything to show, everything to hide. Look into my eyes, listen here. When I got to the show, yo ho ho, I could tell that you had been crying. It's that same song, the DJ sucks, makes me sad. I meant to turn it off, to say goodbye, my love, that radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing around our ears. I turned up radio, I can't hear it. Yeah. I'm trying to sing along. Whoops. That radio song. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I've everything to show, I've everything to hide. Look into my eyes, listen to the radio. I turned up radio, but I can't hear it. No, I can't hear it. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. E questa era Radio Song, che era apparso nel loro album del 1991, Out of Time, ed era stato pubblicato anche come singolo. Continuiamo un po' con qualche altro piccolo estratto dell'intervista a Mike Mills, e poi gli hanno chiesto, la band non esiste più, però pubblicate i vostri due concerti Unplugged del 1991 e del 2001, perché ora? Semplicemente aspettavamo il momento. Non ci sono speranze, quindi, che torniate insieme? No, non credo proprio. Nemmeno per un tour? No. Voglio dire, tutto può succedere, anche che domani io sia abbattuto da un meteorite. Ma non c'è nessun piano al riguardo. Siamo felici di fare quello che facciamo. E che cosa fate? Io sto suonando con Joseph Arthur, un bravissimo artista. Peter ha fatto un disco con Corey Tracker, delle Sliater Skinney, e Michael si sta dedicando molto alla pittura e alla scultura. Perché avete deciso di sciogliervi? Per diverse ragioni. La prima era che il contratto con la Warner era finito. Avremmo dovuto ragionare su cosa fare e francamente non ne avevamo alcuna voglia. La seconda è che il music business, come noi lo avevamo conosciuto, è morto. Tutto sta cambiando e a noi non è che il nuovo faccia impazzire. La terza è che volevamo essere la prima band della storia a sciogliersi perché volevamo farlo e non perché era stata una costrizione. Volevamo avere il controllo della cosa, stringerci la mano e continuare a essere amici. Sareste potuti diventare più grandi degli U2. Chissà, forse, ma quello non è mai stato il nostro scopo. Io credo che noi abbiamo fatto esattamente quello che avremmo voluto fare e questa è la cosa fondamentale. Non abbiamo mai voluto essere la più grande band del mondo. Forse per un certo periodo lo siamo stati ed è stato fantastico, ma questo non è quello che, per cui eravamo nati. E comunque siamo ottimi amici degli U2. Terzo e ultimo estratto da questo Unplugged è un brano particolare, si chiama Love is All Around ed è una canzone registrata dal gruppo rock inglese The Troggs nel 1967. E la cover dei Rem fu il lato B del loro singolo del 91, appunto Radio Song. Ascoltiamolo. Love is All Around. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind that's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. There's no beginning, there'll be no end, 'cause on my love you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things we said. Promise to me, and I gave mine to you. I need someone beside me in everything I do. No, I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end, 'cause on my love you can depend. It's written on the wind that's everywhere I go. Come on and let it show. Thanks. Questi erano i REM. L'album si chiama Unplugged, dicevamo, ed è, significa scollegato. Speriamo che voi non vi siate scollegati con noi. Battutaccia? No. Mi redargui anche sulle mie pronunce, ma il mio inglese è maccheronico al massimo. No, vabbè, questo lo dico. Questo è. No, questo lo dico. Chiedo scusa. No, ma no, ma io non osavo. L'importante però è la musica che proponiamo. Sì. No, anche se poi ogni tanto arrivano nei commenti un po', come dire, un po' frufru, che vabbè. Tipo no, che ogni tanto io faccio battutacce da osteria, eccetera. Però, vabbè. Quella, c'è stata una puntata in particolare che ti sentivi un po', un po' frizzante, un po' ti andavano delle battute. Ma va bene, comunque, anche oggi l'abbiamo siamo fatta. Siamo arrivati ai saluti, sì, Carlo. Sì, siamo in perfetto orario, sono le 20:24 qui a Radio Cerrano. Sono le 20:24 perché abbiamo iniziato alle 19 e quindi un'oretta e mezza di buona musica su Radio Cerrano Web, che oggi è andata anche in diretta senza blocchi su YouTube. Ti rendi conto? Non glielo dire, beh. Vabbè, adesso abbiamo è andata bene, vuol dire YouTube ci vuole bene. Speriamo. Però non è detta l'ultima parola. Io vi saluto, l'appuntamento della prossima settimana. Forse speriamo di mantenere il giovedì. Sì, la prossima settimana, il giovedì, speriamo che il nostro giorno proprio i tre moschettieri dedicato alla trasmissione si ricompongano. E niente, buona serata e buon primo maggio che ormai volge al termine. Un grosso saluto a tutti. Alla prossima.